Da cosa iniziamo invece oggi la nostra consueta pagina internazionale? Riprendiamo il lungo cammino che ci porterà a novembre alle elezioni americane, perché domani è il primo degli importanti Tuesday. Gli americani votano quasi sempre di martedì. Di Tuesday, chissà come mai, tu lo sai, domanda difficile a cui rispondere. Studierò, te lo dirò. E tra l'altro ci sarà un Super Tuesday in cui ci saranno molte primarie. Quelle domani sono quelle dell'Iowa, le chiamiamo primarie, loro le chiamano caucus. Insieme ad altri 5 stati si chiamano ancora così da un'antica usanza, ma in realtà è il procedimento perché gli elettori registrati del Partito Democratico dell'Iowa scelgano il loro candidato. Perché tutto questo rumore intorno all'Iowa, che tutto sommato è un piccolo stato? Tenetevi forti, perché questo che sta per dire Giulia è molto importante. È il primo caucus, e come ricorda USA Today sulla prima pagina di oggi, e in generale il candidato del democratici che vince quel caucus poi è anche il candidato delle primarie. È uscito nel 2000 e lo sfidante, cioè non è che c'è, perché magari penso che qualcuno non capisce, non è che siccome vince lì allora diventa, è una questione statistica. Esatto. Normalmente quel candidato lì è quello che poi ottiene la nomination generale, ed è una cosa su cui i politologi si interrogano, perché veramente non è uno stato così importante. In ogni caso, nel 2008 aveva vinto Obama, che poi naturalmente è stato il candidato del Partito Democratico. L'anno prima aveva vinto Kerry, la tornata prima nel 2004, e nel 2000 aveva vinto Al Gore, che poi, come ricorderete, sfidò Bush, e che poi in quell'elezione sul filo del rasoio che dovemmo aspettare molto tempo per avere il riconteggio dei voti della Florida. Comunque, insomma, il caucus dell'Iowa è una sorta di sibilla per vedere chi potrà essere il candidato ufficiale. Si prevede il futuro. Ne parlano ovviamente tutti i giornali, perché c'è questo, appunto, questa corsa finale, ci sono le foto dei vari sostenitori. Io che invidio agli americani, lo dico sempre, è ancora questa, noi che adesso celebriamo il ritorno della partecipazione, le piazze pacifiche, la partecipazione degli americani alle primarie e poi anche quando ci sarà il candidato ai dibattiti finale è incredibile. Sentiamo per esempio le voci di due di questi elettori che si preparano a votare nel caucus del loro stato. Il classico vox populi. I am supporting Senator Sanders. Why? I just love his message. I think that he has integrity. Or a more pragmatic one. My first choice caucus, I think it's going to go with Amy Klobuchar. Ecco, io ho capito Sanders. Poi la prima dice: io a me piace tantissimo Bernie Sanders, mi piace la sua integrità, mi piace I love, addirittura adoro il suo messaggio, perché naturalmente Bernie Sanders è un progressista per gli standard americani, addirittura c'è chi lo definisce un comunista, per darvi l'idea. Invece un altro elettore dice: la prima scelta sarà Amy Klobuchar, che è la mia candidata preferita. E poi però, siccome è un caucus a doppio turno, poi naturalmente faranno una scelta più pragmatica, perché il tema, e ne parlano New York Times, Wall Street Journal e tutti i quotidiani, è scegliere il candidato che ha più possibilità di battere Donald Trump. E tra l'altro proprio Donald Trump e proprio questo tema è anche l'apertura di alcuni giornali tedeschi, per esempio. Cioè, questo inizio forse passa un po' sottotono solo qui da noi, però in realtà, appunto, l'importanza di questo primo voto è chiara a molti commentatori anche in Europa, e anche per noi europei è importantissima questa elezione. Vedo anche foto però che riguardano il Super Bowl, no? Prima pagina sui giornali americani. Tra l'altro, fate caso, insomma, queste finali sono, loro li chiamano i campionati del mondo, la World League per loro è l'equivalente nel baseball, cioè come se il campionato americano fosse il campionato del mondo. Cioè, in quando si tratta di esagerare gli americani diciamo che però è davvero, insomma, uno sport, lo sport nazionale. Ma oddio, non saprei dire se è più il baseball o il football, da troppo tempo non vivo negli Stati Uniti. Comunque, prima pagina del New York Times, foto del quarterback dei Chiefs del Kansas, perché hanno battuto, tra l'altro con una ripresa incredibile, dopo 50 anni hanno riconquistato il titolo, hanno battuto i San Francisco 49ers, che invece sono una squadra più blasonata, anche se anche loro da un quarto di secolo non vincono la finale del Super Bowl. Giulia, giornali inglesi, direi, per venire in Europa, insomma, vedo che invece lì in prima pagina c'è la foto la di Francia. Questo terrorista, perché sì, ormai Scotland Yard così lo ha definito, si sa già quasi tutto di lui. Il ricordo naturalmente è andato per molti a 3 anni fa con un episodio simile di terrorismo, diciamo low tech, sul ponte di Londra, proprio vicino a Westminster. In questo caso siamo South London, quindi periferia di London, però periferia di Londra, però fa molto scandalo perché Sudesh Aman era, si sapeva che era un simpatizzante dell'ISIS, era stato rilasciato da pochi giorni, era controllato dalla polizia e nonostante questo è riuscito a entrare in questo negozio e accoltellare delle persone. Chi non ha mai, non è proprio sgranocchiare la parola esatta, ciucciare, via, gli orsetti Haribo in vita sua. Sì. Questa è quegli orsetti colorati, sapete, sì, quelli che restano un po' impigliati nei denti. Che succede in Germania? Se ne parla perché? L'Haribo è un colosso dell'industria dolciaria tedesca, ha fatto causa a un'azienda spagnola che ha fatto dei pupazzetti che sembrano veramente gli orsetti, però dentro c'è dell'alcol, sono come dei piccoli shot di alcolici. Ah, però. L'Haribo è arrabbiata, primo perché non vuole essere associata ai suoi orsetti che sono per bambini, anche se forse piacciono di più a noi adulti, forse non vuole essere associata. Le mie figlie piacciono moltissimo, te lo posso garantire. Anche a me. E non vuole essere associata invece a chi produce alcol, e poi perché sostiene che è una violazione del copyright, perché effettivamente, sì, se li guardate sembrano proprio degli orsetti Haribo, solo che sono un po' più grandi e dentro non c'è la gomma, ma c'è dell'alcol, appunto. Allora, dove ci porti? Spagna? Ma sì, in Spagna, tra l'altro, è il Paese, ha questa notizia molto bella per noi che amiamo gli scrittori sudamericani e in particolare García Márquez, perché è stato trovato in Messico un nuovo manoscritto. In realtà è una versione di un altro suo romanzo, ma una versione precedente, un po' come il Fermo e Lucia. Se uno trovasse un inedito del Fermo e Lucia, che è l'antenato dei Promessi Sposi, credo sarebbe una grandissima scoperta. Perciò il Paese lo mette in prima pagina. Poi coronavirus un po' naturalmente dappertutto, anche sul China Daily, che tra l'altro se la prende con il ministro del commercio americano e per le reazioni. Di Italia non si parla, però probabilmente non sono state molto gradite neanche le nostre esternazioni per quanto riguarda la chiusura dei confini. Molto spaventati gli australiani, dove peraltro piove, questa è l'altra grande notizia dei quotidiani australiani, perché sono stati interrotti i voli e ci sono ancora tantissimi australiani e neozelandesi, tra l'altro, in Cina, che non possono in questo momento rientrare. Adesso, come fa Carlo Genta con me, ti faccio una domanda: che fine ha fatto, puoi però consultare i fogli, anzi devi consultare i fogli che di fronte a te, la riforma delle pensioni in Francia? Ecco, le Figaro oggi decide di aprire sulle elezioni americane, cioè chi sarà l'avversario di Trump. La fotonotizia è dedicata al rugby, perché la Francia nel Sei Nazioni ha battuto l'Inghilterra, e poi un colonnino, ecco, dove si dice che ci sarà una guerra di guerriglia testuale all'assemblea, cioè al Parlamento francese, perché adesso bisogna esaminare il testo della famosa riforma pensionistica. Cioè adesso, vedremo, dopo settimane, sì, di scioperi, così. Vedremo chi avrà il coraggio di continuare a difenderla, perché la considera una misura giusta, in primis Macron e il suo primo ministro Philippe, chi invece è un po' spaventato dalla reazione delle piazze, che per ora non ha visto come conseguenza una seria revisione del testo. No, c'è stato un... insomma, vorremmo andare avanti, se ce lo consentite, però è tutto da capire, da vedere. Quindi niente, nei prossimi giorni seguiremo il tema della riforma delle pensioni in Francia, e naturalmente lo faremo con te, Giulia. Grazie, è tutto per la puntata di oggi, cari ascoltatori. Vi lascio ad hashtag autotrasporti. Noi ci risentiamo domani con Jacopo De Franchi in redazione, Filippo Oreggi in regia. Ciao da Alessio Maurizi.